Mare cinese meridionale, appetiti imperialisti, affare mondiale. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. For the first time ever, Washington has outrightly rejected almost all of China's claims over the lucrative Pacific region. Secretary of State Mike Pompeo upped the ante in a statement saying, "We are making clear Beijing's claims to offshore resources across most of the South China Sea are completely unlawful." Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, una nuova puntata di Nessun Luogo Lontano. La squadra è sempre quella: Antonio Tali, Ilaria Sesana, Valentina Ternullo e Andrea Macchioni. Quest'oggi in assistenza Jacopo De Franchi e in regia Valeria Bernardi. 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti rispetto al tema che vi proponiamo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Naturalmente siamo anche sui social, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24 e la pagina Facebook. Twitter, se amate questo social, i due account da tenere d'occhio, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Il tema di quest'oggi, dicevo, dopo la dichiarazione al vetriolo di Mike Pompeo, segretario di Stato americano, che ha accusato la Cina di appetiti illegali e inaccettabili nella porzione di mare che risponde al nome di mare cinese meridionale, proviamo a mettere il grandangolo e accendere i riflettori su quella ampia porzione di mare che è dall'altra parte del mondo, ma che rischia non soltanto di provocare un conflitto a bassa intensità, e gli attori sono tanti, ma andare a incidere sugli equilibri commerciali e geopolitici dell'intero globo. Tanti gli attori, dicevo: Cina, Taiwan, Vietnam, Filippine, Indonesia, Malaysia, ma anche Australia, e intanto gli Stati Uniti che entrano a gamba tesa. 349-238-6666 per voi, noi intanto sfogliamo come sempre i nostri dossier. Il primo ci porta nel Regno Unito, perché il governo britannico ha ordinato alla società di telecomunicazioni di interrompere l'acquisto di tecnologie e equipaggiamenti dal colosso cinese Huawei per la rete 5G, questo a partire dal 31 dicembre, e a chiudere ogni altro tipo di fornitura entro il 2027. Lo ha annunciato in Parlamento il ministro per il digitale Oliver Dowden dopo gli incontri del premier Boris Johnson con il Consiglio di Sicurezza Nazionale e il gabinetto dei ministri. Dowden ha dichiarato che il Regno Unito ha imboccato un percorso irriversibile per eliminare fornitori ad alto rischio, così sono stati definiti attori come appunto Huawei. Secondo il Guardian, il quotidiano britannico, la decisione del governo Johnson rappresenta una marcia indietro rispetto alla precedente invece decisione di permettere al colosso cinese di fornire il 35% delle infrastrutture 5G del Regno Unito. Naturalmente non è mancata anche una forma di opposizione politica interna, c'è stata una parte del Parlamento, una sessantina di parlamentari che invece considerano Huawei una minaccia a tutti gli effetti per la sicurezza nazionale e vorrebbero che il Regno Unito seguissero gli Stati Uniti e l'Australia nell'implementare divieti ancora più rigidi. E naturalmente di pari passo, immaginate che tipo di investimenti finanziari e tecnologici ci vuole andare a sviluppare una rete 5G totalmente autonoma e quindi impermeabile agli appetiti cinesi. Tra i dossier che ci sono qui sulla scrivania di Nessun Luogo Lontano non può mancare quello libico, ne abbiamo parlato tantissimo in questi mesi di programmazione. Nel tardo pomeriggio di lunedì il Parlamento di Tobruk, quindi siamo lato Cirenaica, Haftar, generale ribelle, la linea del fronte adesso è quella di Sirte, con una Libia sostanzialmente spaccata in due anche geograficamente, ha approvato una mozione che autorizza l'Egitto a intervenire militarmente nel paese in caso di necessità. Per fare cosa, vi starete chiedendo? Beh, per contrastare la Turchia, che a sua volta, come ben sapete oramai, sostiene invece il governo di Tripoli, quello guidato da al-Sarraj. La risoluzione approvata dal Parlamento di Tobruk autorizza, virgolette, leggo testualmente, le forze armate egiziane a intervenire per proteggere la sicurezza nazionale della Libia e dell'Egitto se ravvisano un pericolo imminente per i due paesi. Il mese scorso lo stesso presidente egiziano al-Sisi aveva dichiarato che l'Egitto avrebbe potuto inviare truppe in Libia e aveva lanciato un avviso molto molto chiaro, dai toni anche perentori, l'aveva lanciato a tutte le milizie fedeli al governo di Tripoli: non attraversate la linea del fronte, una vera e propria dichiarazione di guerra. La linea del fronte, lo ripeto, è Sirte, non è un caso che che si stiano ammassando truppe, ma l'assalto finale a questa importante città che ha dato i natali anche a Muammar Gheddafi ancora non sia cominciato. E poi in Bulgaria, perché per il quarto giorno consecutivo si sono svolte nel centro di Sofia e in altre città proteste contro il governo conservatore di Boyko Borisov, che è il leader del partito GERB. Migliaia di persone scese in piazza davanti al Consiglio dei Ministri nel centro della capitale bulgara per chiederne proprio le dimissioni sue, di Borisov e del procuratore generale Ivan Geshev. Lo scontro è stato originato da un video che è girato sui social, ma sostanzialmente mette di fronte pezzi di istituzione della Bulgaria, perché è stato lo stesso presidente della Repubblica Radev sostenendo che da un lato il primo ministro, ma dall'altro anche il procuratore generale, quindi il potere giudiziario del paese, ha perso ogni fiducia da parte del popolo. Il popolo che, secondo le parole del presidente, è invece unito nella lotta alla corruzione e ogni manipolazione di genere. Vedremo come evolverà questa situazione, è un dossier particolare. Proteste in Bulgaria non si vedono da alcuni anni, vi fu un agosto in particolare che fu segnato da una serie di autoimmolazioni, molto poco raccontato sia il paese che quella vicenda all'epoca. Vediamo, sono quattro giorni che la piazza bulgara si sta facendo sentire, vedremo con quali esiti. Ripeto, uno scontro istituzionale a tutti gli effetti all'interno della Bulgaria. Altra crisi che sta seguendo e sta montando negli ultimi giorni riguarda il confine tra Armenia e Azerbaigian. Almeno 9 soldati e un civile sono morti oggi nel terzo giorno di scontri tra le truppe azere e quelle armene. L'Azerbaigian ha denunciato la morte di 7 propri militari, tra cui un colonnello e un generale, e l'uccisione di un civile in un bombardamento delle forze armate armene, mentre dall'altra parte l'Armenia denuncia la morte di 2 soldati. Da parecchio tempo, da parecchi anni, non si registravano scontri di questo livello. La disputa territoriale oramai decennale, anche qui dossier, come dire, che è rimasto tiepido per molto molto tempo e sta improvvisamente esplodendo. Aggiungo un dettaglio, che poi tanto dettaglio non è: anche su questo dossier ci si infila Ankara. Dopo la notizia degli scontri, il Ministero degli Affari Esteri turco ha rilasciato una dichiarazione proprio in sostegno dell'Azerbaigian. Anche qui abbiamo tensione che è circoscritta a quel confine, ma che potrebbe estendersi e trainare nel conflitto varie potenze regionali, tra cui, immaginate, anche la Russia, che è alleata militare dell'Armenia, invece la Turchia, che è più vicina all'Azerbaigian. Il Caucaso, il Caucaso è una regione importantissima per il transito energetico, e le due potenze, Turchia e Russia, sono in perenne conflitto proprio per assicurarsi le linee di approvvigionamento. Questi sono i nostri dossier internazionali, sono quelle notizie e quei fatti che stiamo analizzando, che stiamo seguendo e che diventeranno puntate nelle prossime giornate qui di Nessun Luogo è Lontano. Detto ciò, con Valeria Bernardi adesso ci spostiamo dall'altra parte del mondo, andiamo nel Mar Cinese Meridionale. Partiamo da quella dichiarazione a cui facevo riferimento a inizio puntata, quella del segretario di Stato americano Mike Pompeo. Ha accusato la Cina di appetiti illegali e inaccettabili nella porzione di mare del Mar Cinese Meridionale, appunto, in cui, guarda caso, troviamo l'isola di Taiwan, ma troviamo anche gli interessi e parte delle acque territoriali di Vietnam, Filippine, Indonesia, Malaysia e la vicina, si fa per dire, viste le distanze, Australia, che vede una crescente competizione proprio con la Cina, continua a avere mal di pancia sempre più forti per queste pretese che Pompeo definisce imperialiste da parte di Pechino su quella zona di mare. La proiezione marittima cinese è fondamentale per Pechino, vi abbiamo raccontato in questi mesi di Nessun Luogo Lontano anche gli sforzi dell'industria bellica cinese proprio per assicurarsi il controllo dei mari. Che cosa sta accadendo? Partiamo dalle dichiarazioni, dicevo, l'ultima è stata quella di Pompeo proprio sul Mar Cinese Meridionale, ma arriviamo da mesi di tensioni molto forti fra l'amministrazione statunitense e la Cina. Il 4 luglio Donald Trump ha fatto un discorso che ancora una volta andava ad attaccare Pechino. È utile fare un piccolo passo indietro nel passato. Sentite cosa disse. Stiamo producendo camici, mascherine e altro materiale chirurgico nel nostro paese. Materiali che prima erano prodotti quasi esclusivamente in Cina, da cui, ironia della sorte, questo e altri virus provengono. Quindi abbiamo vari terreni di battaglia, per così dire, perdonatemi un po' il paradosso visto che stiamo parlando di mare, influenza geopolitica sul mare, geopolitica sanitaria, per così dire, Covid-19, mascherine, dispositivi di protezione. E poi però ci sono tanti temi, se si vuole attaccare la Cina, come dire, il ventaglio di armi possibili è davvero, davvero ampio. Mike Pompeo, per esempio, ha tirato fuori la questione, peraltro non a torto, però sicuramente in maniera strumentale, della minoranza musulmana, degli uiguri, sentite. Vorrei richiamare l'attenzione sui recenti e sconvolgenti dati sulla Cina, il cui partito sta infierendo tramite torture e l'imposizione dell'aborto sugli uiguri e altre minoranze della Cina occidentale. Ma la brutalità della Cina sta colpendo anche il resto del mondo. Pensiamo all'India e all'affronto alla sua sovranità, alla minaccia per l'integrità e la sicurezza nazionale, così come ha affermato lo stesso governo indiano. Ma torniamo a quelle che sono le accuse più forti, oggetto di questa puntata di Nessun Luogo Lontano, gli appetiti definiti sostanzialmente non soltanto illegali ma anche imperialisti di Pechino sul Mar Cinese Meridionale, che vanno a intaccare interessi anche economici su tutti, per esempio l'industria della pesca. Ci sono stati episodi di cronaca anche particolarmente non dico violenti, ma insomma sì, speronamenti. Ci sono state bagarre in quel mare fra le flotte di pescherecci dei vari attori presenti. La risposta della Cina, beh, è arrivata tramite il portavoce Zhu Lian, e qua spero che la pronuncia sia stata corretta. Adesso vedo se Antonio Taglia a un certo punto compare magicamente di là dalla porta, si vede che ho fatto qualche errore. Comunque vi faccio sentire la reazione ufficiale di Pechino, sentite. La Cina non ha mai avuto l'intenzione di stabilire un impero marittimo nel Mar Cinese del Sud e ha sempre trattato alla pari i vicini. La Cina ha esercitato al minimo la propria sovranità in quelle regioni. Al contrario, gli Stati Uniti rifiutano di rispettare le convenzioni sul diritto marittimo delle Nazioni Unite e spesso violano i trattati internazionali. Questa è la risposta e mi correggo, perché Antonio Tale si è palesato. Ciao Li Jen, devo lavorare un po' sul cinese, su questo non c'è dubbio. Chi lavora invece su quell'area, la studia, e in particolare con riferimento al tema di quest'oggi, quello che potrebbe essere una guerra sottotraccia, una guerra a bassa intensità che potrebbe palesarsi per queste tensioni, è Alessio Patalano, ricercatore al World Studies al King's College di Londra. Alessio Patalano, buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno. Allora, l'annuncio di Pompeo quanto sorprende? Va ad inasprire immediatamente la tensione già esistente tra Stati Uniti e Cina, però sposta un po' l'oggetto della contesa, no? Della diatriba. Si era parlato di mascherine, l'ambito sanitario, si era parlato della minoranza uiguri. Quanto è importante il Mar Cinese e Meridionale? Perché gli Stati Uniti improvvisamente mettono la quinta e attaccano così frontalmente Pechino? Allora, sicuramente è un allargamento dell'orizzonte, diciamo, di confrontazione, di confronto con la Cina, e come giustamente lei metteva in evidenza, questo è un fronte di confronto che ha incluso diversi aspetti in base a quello che poi dominava nel momento specifico il ciclo di informazione mediatica, cominciato con Covid dall'inizio dell'anno, poi gli uiguri, adesso c'è questa enfasi sul Mar della Cina Meridionale. Ora, innanzitutto bisogna dire che il Mar della Cina Meridionale è un tema ricorrente ed è un tema che è stato al centro dei toni più inaspriti ingaggio tra gli Stati Uniti e la Cina sin dalle prime ore dell'amministrazione Trump. Il National Security Strategy del 2017 aveva chiaramente messo in evidenza l'importanza per gli Stati Uniti di mantenere lo status quo dell'ordine marittimo internazionale, aveva puntato i riflettori sulla centralità del Mar della Cina Meridionale in quanto bacino prioritario di flussi di trasporto energetico, commerciale, quindi centrali a questo sistema economico liberale internazionale a forte matrice marittima. In particolare, con questo annuncio, la novità è che, come in precedenza con la questione degli Uiguri, così come con il Covid, gli Stati Uniti hanno deciso di mettere in evidenza problemi con atteggiamenti e posizioni del governo cinese che sono non solo in contraddizione con le posizioni americane, ma che allo stesso tempo presentano dei problemi di lunga durata e quindi diciamo riuscire a prendere un po' l'iniziativa e sloggiare la narrativa cinese da una posizione di di rilevanza e di setting the tone, no? Della conversazione sulla questione. In particolare, in che modo Pompeo ha fatto questo? Mettendo in evidenza un linguaggio nello statement rilasciato dallo State Department che ricalca in modo molto attento le risoluzioni del 2016 della Corte Internazionale riguardo al caso portato dalle Filippine contro la Cina. Sì. Quindi in questo senso c'è uno shift nel vocabolario utilizzato dagli Stati Uniti che chiaramente cerca di tirare quasi il tappeto da sotto ai piedi del governo cinese e della narrativa cinese in cui le rivendicazioni territoriali marittime si basavano su criteri che chiaramente erano in contraddizione con quelli del tribunale e delle risoluzioni trovate dal tribunale 2016. Sì. Sì, l'analisi e il commento vi arriva da Alessio Patalano, War Studies al King's College di Londra. Linguaggio incendiario, allora vi propongo di fare un tuffo in quei mari e capire meglio chi sono i tanti attori che lo affollano. Sentite. Un pugno di isole e di scogli quasi completamente disabitati, circondato a perdita d'occhio dalle acque del Pacifico. Un gruppo variegato di nazioni, ognuna delle quali reclama in parte o in tutto la sovranità sulla zona. Un aumento delle operazioni militari nell'area. Ecco tutti gli ingredienti per un cocktail potenzialmente esplosivo. Benvenuti nel Mar Cinese Meridionale, un mare in cui ogni anno transitano oltre 3.000 miliardi di beni, e dove Cina, Taiwan, Vietnam, Filippine, Indonesia, Malesia e persino il sultanato del Brunei sono tutti impegnati in una contesa marittima che provoca incidenti sempre più frequenti tra pescherecci e navi vedetta. Cosa sta succedendo? Da tempo sia la Cina che Taiwan rivendicano il controllo quasi completo della zona attraverso la cosiddetta linea dei 9 tratti, una linea immaginaria che incorpora le isole Spratly e le isole Paracel che definirebbe l'area di influenza cinese da secoli. A questa impostazione si oppongono tutti gli altri vicini, ma da almeno 10 anni la disputa è sempre più accesa. La marina cinese ha costruito delle isole artificiali che ospitano le sue navi militari in missioni di ricognizione continua, mentre nel 2016 le Filippine hanno coinvolto il Tribunale Internazionale dell'Aia, che ha dato torto alla Cina in un verdetto che Pechino ha definito invalido. La posta in gioco per questo risico del mare che si sta allargando a onde concentriche in tutto il Pacifico? Non solo le rotte commerciali e le rotte di pesca. Secondo diverse analisi, le acque delle isole Spratly e delle isole Paracel nascondono notevoli giacimenti di petrolio e gas naturale. Questo è il tratto di mare che vi stiamo raccontando in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano, e ci soccorre nell'analisi Alessio Patalano del War Studies al King's College di Londra. Alessio Patalano, queste dichiarazioni incendiarie di Mike Pompeo potrebbero avere come conseguenza anche una maggiore presenza militare? In questo momento sto pensando in particolare a Taiwan. e quindi con il rischio di un'escalation militare. Cioè, come dire, dal linguaggio si potrebbe passare ai fatti? Sicuramente la tendenza degli ultimi mesi è stata quella di una presenza militare più pronunciata, o per meglio dire, c'è sempre una distinzione da fare tra quelle che sono attività operative condotte dalle forze armate, che sono, diciamo, poi pubblicamente riportate dai media, e poi quelle che invece non lo sono. E sicuramente quello che è successo negli ultimi 2 anni, beh, in particolare negli ultimi 7-8 mesi, c'è stata una volontà dalla parte dell'amministrazione Trump di rendere noto all'opinione pubblica e in generale attraverso i vari strumenti di comunicazione più facilmente delle attività militari condotte nella regione, in senso lato ed in particolare nel Mar della Cina meridionale e nel Mar della Cina orientale. Questo c'è sicuramente, c'è dal punto di vista politico una volontà da parte degli Stati Uniti di continuare a progressivamente incrementare la propria presenza militare. Il fatto che poi possa avvenire, beh, questo è ancora un attimino in discussione, se non altro perché, come l'incendio alla Bonhomme Richard, la nave anfibia che era adesso stava per essere preparata per essere mandata in contesto pacifico, ci sono delle problematiche, delle carenze abbastanza significative nello strumento militare americano per mantenere un ritmo operativo piuttosto sicuramente elevato, in modo che potrebbe essere corrispondente ai toni dello statement di Pompeo in modo continuativo. Ciò detto, è sicuramente corretto osservare che l'ambizione e le tendenze degli ultimi mesi suggeriscono attività militari più intense nei mesi a venire. Sì. La voce che state ascoltando è quella di Alessio Patalano, che si occupa di quell'area da tempo, King's College di Londra. Patalano, ho l'ultima domanda, però le proporrei una cosa. Andiamo a sentire come stanno andando le borse in questi minuti e poi con lei l'ultima domanda, l'ultimo punto da toccare, perché poi lo annuncio già agli ascoltatrici e agli ascoltatori, ci sposteremo in Australia. Vi dicevo, stiamo parlando di una porzione di mare relativamente piccola, ma gli attori sono davvero tanti. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Prosegue la lunga prima pagina, è unica perché quest'oggi vi proponiamo un solo argomento: il Mar Cinese Meridionale, una porzione di mare in cui si affollano gli appetiti di tanti attori, su tutti evidentemente Pechino, quelli che Mike Pompeo, segretario di Stato statunitense, ha bollato non solo come inaccettabili, imperialisti, ma anche illegali. Con Alessio Patalano del King's College di Londra stiamo tentando di capire che cosa potrebbe accadere nel caso di una escalation, quindi passare dai toni che già sono piuttosto incendiari a una presenza massiccia invece di portaerei, di navi, di aerei, quindi presenza militare. In quel caso, Alessio Patalano, la risposta cinese quale potrebbe essere? Sicuramente vedremo nei prossimi mesi il comportamento anche dei paesi del sud-est asiatico, perché la risposta cinese allo stato attuale in un certo senso dovrà anche riparsi a quelli che sono le posizioni, gli atteggiamenti e, diciamo, le reazioni dei paesi nella regione specifica, che diciamo rivieraschi del Mar della Cina meridionale, rispetto alle dichiarazioni di Pompeo. Le dichiarazioni di Pompeo, per quanto siano incendiarie e per quanto declaratorie di una volontà americana di incrementare una presenza e di riaffermare una posizione dominante degli Stati Uniti, in un certo senso però fanno riferimento a delle rivendicazioni territoriali che sono portate avanti nel contesto del Mar della Cina meridionale da paesi rivieraschi come Vietnam, le Filippine, l'Indonesia, la Malesia. Quindi in questo senso sarà molto importante vedere le reazioni di questi paesi rispetto alle dichiarazioni americane e come queste poi reazioni si tradurranno in una volontà di accogliere gli Stati Uniti in modo maggiore, perché questo poi forzerà la Cina o a cercare di ridurre i toni della confrontazione a livello locale con questi paesi, o altrimenti cercare di flettere i muscoli ancora di più di quanto non sia stato fatto allo stato attuale. Ciò detto, adesso mentre stiamo parlando, proprio in questo preciso momento, ci sono comunque delle esercitazioni in corso e altre esercitazioni pianificate da parte della Cina. Quindi in un certo senso sicuramente ci si può aspettare che nella pianificazione di queste esercitazioni ci saranno degli scenari che più direttamente porteranno a questa possibilità di mandare segnali al governo americano da parte della Cina. Quindi in un certo senso sicuramente vedremo una Cina che sarà molto attenta a proiettare, a progettare questa immagine di potenza militare che flette i muscoli e che è pronta ad una maggiore forzatura da parte americana in termini della propria presenza. Ma all'atto pratico parte di questa applicazione di flettere i muscoli dipenderà moltissimo dalle reazioni degli attori regionali all'interno del Mar della Cina meridionale. E come abbiamo sentito dalle sue parole, le sue patalano, sono tante, ci sono in gioco risorse energetiche, rotte commerciali, e quindi quel mare è goloso. Grazie mille. Alessio Patalano, King's College di Londra, buona giornata e buon lavoro. Grazie, buonasera. Intanto al 349-238-6666, ascoltatrici e ascoltatori, state dicendo la vostra. Qualcuno ribatte la tesi portata da Patalano, ma come i muscoli, una portaerei piccola contro le 20 americane, non diciamo fesserie, i cinesi soltanto a parole, immagino voglia concludere la frase dicendo vogliono confrontarsi. Qualcuno ironizza su un termine utilizzato dal dottor Patalano, però vedete, quando si è abituati a una platea inglese, britannica, e quando si parla 24 ore al giorno inglese possono anche accadere degli piccoli scivoloni in cui si va a fare una traduzione dal termine inglese a quello italiano. Quello che conta è quello che ci ha raccontato Alessio Patalano, che non esclude una escalation pur limitata in quei mari. Qualcun altro dice bisogna fermare la Cina a tutti i costi e invoca addirittura l'intervento britannico. C'è molto in gioco in quei mari, e un attore molto molto più lontano ne sa qualcosa, perché negli ultimi anni il desiderio egemonico legittimo di due potenze, una di peso relativamente maggiore, la Cina, ma anche l'Australia, si sono confrontate in quei tratti di mare. Ed è per questo che vi propongo anche di sentire la voce di Yuan Graham, che è un esperto in geopolitica del continente asiatico, sicurezza e difesa australiana. Il governo australiano ha preso recentemente decisioni contro Pechino in relazione alla situazione di Hong Kong. Mentre recentemente lo stesso governo di Canberra ha siglato un accordo di cooperazione militare con l'India. Ecco, se sappiamo le tensioni India-Cina, se conosciamo come conosciamo le tensioni Hong Kong e Cina, evidentemente c'è un posizionamento da parte dell'Australia molto molto chiaro. Ma quali sono gli obiettivi di Canberra? Ve lo faccio raccontare da Ewan Graham. Il punto di partenza per rispondere a questa domanda è la geografia. L'Australia è una grande massa continentale delle dimensioni degli Stati Uniti, ma la sua popolazione è ancora limitata, paragonabile alla popolazione di Taiwan. Mentre nella stessa area troviamo paesi come il Vietnam e come le Filippine, che hanno entrambi una popolazione di circa 100 milioni di abitanti. Quindi la capacità dell'Australia di modellare il proprio ambiente è limitata, come limitata è la capacità di muoversi indipendentemente da altri attori. Ecco allora che l'aspetto più importante per l'Australia è la capacità di modellare e influenzare la cooperazione con altri paesi. È per questo che abbiamo assistito a una vigorosa spinta diplomatica verso un miglioramento delle relazioni con l'India, ma anche con altri paesi del sud-est asiatico e più recentemente con i paesi paesi del Pacifico meridionale, nei confronti dei quali l'Australia rimane la principale potenza regionale. Ma l'aspetto più importante per l'Australia, che è una democrazia liberale e dipendente dal commercio, è la capacità di mantenere l'apertura e la libertà all'interno della regione Indo-Pacifica. Canberra sta cercando duramente di mantenere questa situazione favorevole, ma non può condurre questo tipo di politica da sola. Dovrà sempre dipendere da altri paesi, come l'India. Per questo motivo, recentemente, abbiamo assistito al vertice virtuale tra i due paesi, organizzato con il fine di migliorare le rispettive situazioni economiche e in materia di sicurezza. Recentemente l'Australia si è fatta anche portavoce delle polemiche contro la repressione ad Hong Kong, prendendo precise decisioni politiche. Ovviamente c'è un filo rosso che collega questi atteggiamenti, ed è la crescente preoccupazione nei confronti della Cina. La Cina rappresenta la principale motivazione che spinge l'Australia a migliorare le relazioni diplomatiche nella regione e a migliorare la propria capacità di leadership a livello internazionale. Posizioni che si riflettono, per esempio, nella nuova politica in materia di difesa. E come state ascoltando, quel tratto di mare diventa caldo, caldissimo e potrebbe surriscaldarsi. Gli interessi sono tanti, sono commerciali, sono dell'industria ittica, dell'industria energetica e più in generale gli appetiti dei tanti attori tendono a che cosa? Beh, avere un'influenza, avere un'egemonia che poi si traduce evidentemente anche in egemonia economica. Quindi c'è anche l'Australia che fa parte di questa partita. Abbiamo forse tralasciato, ma l'abbiamo lasciato per ultima, ma non da ultima, non so come dire, per importanza, Taiwan. Quindi fra pochissimo vi porto in diretta a Taipei, perché forse Taiwan adesso è la vera spina nel fianco di Pechino, non prima di aver ascoltato come sta andando il traffico sulle strade. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Come promesso andiamo a raccontarvi e analizzare quella che è forse la spina nel fianco più dolorosa in questo momento per Pechino, adesso che il regime cinese ha sistemato, tra virgolette, la questione Hong Kong con quella nuova legge sulla sicurezza, i cui esiti ancora non li abbiamo visti, perché non hanno espletato, non hanno dipanato anche tutte le possibili conseguenze. Credo che dovremmo aspettare mesi, se non anni, per capire che cosa accadrà. Facevamo riferimento e menzione all'Australia, che è pronta ad accogliere esuli hongkongesi, così come il Regno Unito, così come la stessa Taiwan. E allora vi porto lì in diretta con la voce di Lorenzo Lamperti, Affari Italiani. Lorenzo, buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, benvenuti e grazie per l'invito. Allora, Lorenzo, Taiwan per la Cina è semplicemente una provincia ribelle che prima o poi dovrebbe rientrare nell'alveo della madre cinese, nel seno della madre cinese. Ecco, come si posiziona rispetto alla questione del Mar Cinese meridionale? Sostanzialmente è attorniata proprio da quel mare. Avrà intenzione di entrare nella contesa oppure assumerà un atteggiamento molto molto più prudente, non avendo, come dire, la potenza di fuoco anche diplomatica che può avere Pechino? Allora, ufficialmente diciamo che il governo taiwanese ha chiesto di entrare a far parte della discussione, chiedendo appunto attraverso il Ministero degli Affari Esteri di essere coinvolta nella discussione a livello multilaterale. È chiaro che per quanto riguarda la postura e la vicinanza anche geografica con la Repubblica Popolare, si poi risolve in una postura in realtà più difensiva che propositiva. È vero che però le rivendicazioni sono ancora presenti, cioè nella Costituzione della Repubblica di Cina / Taiwan, sì. Insomma, ci sono ancora tutta una serie di territori e di dispute sia terrestri che marittime, navali, che la coinvolgono con gli altri attori regionali. Quindi a livello ipotetico è chiaro che anche Taiwan potrebbe avere un posto in quel tavolo. Non ce l'ha, anche perché tra l'altro gli Stati Uniti nella dichiarazione di Pompeo, di cui avete già parlato diffusamente, non fanno riferimento a Taiwan, tra l'altro fanno riferimento ad altri 5 paesi dell'area, ma non a Taipei. Sì. E ho come la sensazione, Lorenzo Lamperti, però sconfessami pure se mi sbaglio, che Mike Pompeo e in generale l'amministrazione statunitense utilizzi Taiwan come una delle tante armi a disposizione, salvo poi, come dire, se le cose si mettessero male, non dare troppa importanza. È pur vero che Taiwan è legata agli Stati Uniti da un patto che promette un intervento americano militare in caso di aggressione cinese. Questo è uno scenario che però probabilmente non vedremo mai. Qual è la sensazione? I taiwanesi come vivono questo rapporto con gli Stati Uniti? Il rapporto, allora, intanto diciamo che il rapporto è di un'ambiguità deliberata, nel senso che c'è questo Relation Act del 79 che è stato fatto in concomitanza con il riconoscimento della Repubblica Popolare e quindi il disconoscimento della Repubblica di Cina, che in effetti lega Washington a Taipei sia dal punto di vista difensivo che strategico, economico, eccetera, seppure sì. non ci sia appunto una relazione diplomatica ufficiale. Sì. Quello che dici penso che sia verissimo, nel senso che tra l'altro c'è anche un dibattito sull'isola di recente, perché è vero che durante la presidenza Tsai c'è stato un grandissimo avvicinamento agli Stati Uniti e quindi anche a Donald Trump, ricordiamo tutti la telefonata di congratulazioni del 2016, sì. i vari scambi di ufficiali, l'ultimo atto del 2018 che ha portato i rapporti su un nuovo livello. C'è però anche una discussione, perché per esempio la scelta di uscire dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ha rappresentato un colpo per Taiwan, perché da parte di Trump, perché chiaramente Taipei vedeva in Washington il principale sponsor per il suo ingresso e il suo ritorno nell'assemblea dell'OMS. L'uscita di scena degli Stati Uniti non fa altro che dare più potere chiaramente a Pechino, perché quei vuoti poi vanno riempiti. Certo. Quindi in realtà è vero che c'è questo dibattito anche interno che un po' sta riposizionando le opinioni dei taiwanesi. Probabilmente iniziano a capire che una presidenza Biden con toni magari più suadenti potrebbe anche essere più funzionale, perché insomma ricordiamo che Taiwan non è che vuole una guerra con la Cina, così come la Cina non vuole una guerra con Taiwan. L'obiettivo è diverso, l'obiettivo del cinese è sicuramente quello della riunificazione da completare entro il 2049 per il centenario della Repubblica Popolare. Dal punto di vista di Taipei in realtà, come vediamo anche tutti i sondaggi eccetera, c'è un mantenimento più che altro dello status quo, e quello sostanzialmente anche qui un'ambiguità deliberata di nuovo che consente di sostanzialmente un autogoverno a tutti gli effetti indipendente, senza però incorrere in eccessive ire da parte del grande vicino. Sì. Invece c'è stato un episodio che ha scatenato le ire dell'opposizione interna, il Kuomintang, che è il partito di opposizione, che invece è a favore di un riavvicinamento con la Cina, che proprio quest'oggi, Lorenzo, ha sostanzialmente occupato l'aula del Parlamento taiwanese dopo che Tsai Ing-wen ha nominato, anzi è stato il Parlamento che ha nominato una persona dell'entourage della presidentessa alla carica, massima carica di un'autority statale indipendente. Ecco, si è visto in qualche modo un rigurgito filo cinese. Questa dinamica interna quanto può incidere e quanto Tsai Ing-wen, la presidente, può mantenere questa barra così solida, così fortemente anticinese? Ma allora, partiamo dal fatto che io non ritengo Tsai Ing-wen essere così anticinese, ma penso che Tsai Ing-wen sia più rappresenti il DPP ormai un grande centro. Mi spiego, il dialogo con Pechino è impossibile perché da parte del DPP, perché non c'è un accordo sul famoso consenso del 92, che è quello che stabiliva il principio dell'unica Cina. Quindi da questo punto di vista il dialogo tra DPP e Partito Comunista è impossibile. Ma Tsai in realtà funge un po' da appunto da grande centro, perché è vero che raccoglie il voto di chi ha sicuramente delle istanze più aggressive verso Pechino, ma non è per la dichiarazione di indipendenza, non ha mai fatto passi ufficiali in merito, l'indipendenza di Repubblica di Taiwan intendo. È vero che il Kuomintang è il principale, è sempre stato il principale interlocutore di Pechino, ma anche il Kuomintang è in una fase di rinnovamento profonda, perché dopo le batoste elettorali e l'ultima alle presidenziali di gennaio sta cercando di rivedere le proprie posizioni. Ed è interessante per esempio che la scorsa settimana il Global Times ha pubblicato un'intervista a un importante ex membro del Consiglio di Stato cinese sugli affari taiwanesi, che ha lanciato una sorta di avvertimento al Kuomintang, ha detto: ma non seguite il DPP perché altrimenti andate verso la rovina, invitandoli, diciamo, a mantenere la loro linea, a tornare alla loro linea precedente. Ecco, il fatto di cronaca a cui alludevi prima è una vicenda da chiarire, perché effettivamente rappresenta un po' una discontinuità a questo yuan di controllo, che possiamo definire una sorta di corte dei conti, possiamo dire, però con un ruolo più politico, non solo di magistratura. È una figura più politica di quelle precedenti, quella che vorrebbe nominare Tsai, ancora non si è verificata la nomina. Sì, e quindi questo giustifica anche, come dire, la reazione piuttosto vivace, forse qualcuno direbbe scomposta, da parte dell'opposizione. Io ringrazio tantissimo Lorenzo Lamperti, lo ricordo, scrive su Affari Italiani, esperto di Cina e Taiwan, e ci ha parlato proprio da Taipei. Lorenzo, grazie mille, buona giornata e buon lavoro, anzi stai con me, perché adesso anche tu devi soggiacere a quest'ordine. Significa accomiatarsi da voi, cari ascoltatori e ascoltatrici, ringraziandovi. Un ringraziamento alla squadra di Nessun Luogo. L'appuntamento è per domani ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.